Euroreportage. Nuova commissione, ottobre, tempo di esami, di Gigi Donelli. Soyez les bienvenus, nous voilà. Non ci sarà nessuna commissione europea senza l'approvazione del Parlamento europeo. I commissari designati, che sono 27, non sono ancora commissari, ma solo commissari designati, almeno fino a quando non ci sarà il via libera delle commissioni competenti del Parlamento europeo. Se non fosse per una questione di ruolo, il portavoce del Parlamento, lo spagnolo Jaume d'Ochiquillo, sembrerebbe davvero minaccioso, anche se in realtà i precedenti dicono che non succede spesso, ma sicuramente accade che il Parlamento dica di no. Ne sa qualcosa l'italiano Rocco Buttiglione, che nel 2004 divenne il primo commissario europeo designato a non ricevere l'approvazione di una commissione dell'Europarlamento. Buttiglione, che rispose alle domande dei deputati in ben quattro lingue, usando italiano, inglese, francese e tedesco, affermò tra l'altro che a suo avviso bisognava fare una distinzione tra morale e diritto, perché disse: come cattolico considero l'omosessualità un peccato, ma non un crimine. Inoltre aggiunse che la parola matrimonio deriva dal latino matrimonium, ovvero protezione della madre, e che la famiglia esiste per permettere alla donna di avere figli e la protezione di un uomo. Questa risposta, collegata alle sue tante prese di posizione pubbliche in Italia contro l'ampliamento dei diritti agli omosessuali, gli costarono la bocciatura da parte dei deputati. Il responso della commissione parlamentare non è vincolante, in quanto è solo un voto indicativo, mentre il voto più importante è quello di fiducia, che riguarda l'intero esecutivo e avviene in seduta plenaria. La cosiddetta bomba atomica la chiamano, che nessun presidente vuole sperimentare. Nel 2004 Barroso e Berlusconi insistettero per un po' su Buttiglione, ma quando fu chiaro che con lui l'esecutivo non avrebbe mai ricevuto la fiducia, il suo nome fu sostituito da quello di Franco Frattini. Il voto in plenaria fu dunque posticipato di 3 settimane a causa proprio di questa battaglia. Buttiglione non fu però l'unica grana per Barroso nel 2004. La lettone Ingrida Ydre, che era stata nominata commissario alla tassazione, finì sotto attacco da parte di ONG e opinione pubblica in seguito a delle accuse di violazioni delle regole sui finanziamenti della campagna elettorale da parte del suo partito, l'Unione degli Agricoltori e dei Verdi. Il suo coinvolgimento personale non fu mai provato, ma anche in questo caso si preferì sostituirla e al suo posto fu scelto Anders Piebalgs, cui venne affidata la cooperazione allo sviluppo. Ci fu poi il caso dell'ungherese László Kovács, cui il Parlamento non volle affidare l'energia, portafoglio al quale non veniva ritenuto adatto, ma il commissario designato fu accettato quando Barroso gli affidò la tassazione tolta alla Udre. Anche nel 2010 la formazione della commissione non fu priva di intoppi. A incontrare l'opposizione dei parlamentari fu la nomina della bulgara Jeleva, a cui Barroso aveva assegnato la cooperazione internazionale. Durante l'audizione la candidata non riuscì a fare sufficiente chiarezza sui suoi interessi finanziari e in particolare su una società di consulenza, la Global Consult, e, come se non bastasse, non fu ritenuta abbastanza competente per quel ruolo. Messa alle strette dai deputati, la Jeleva rinunciò alla carica. Al suo posto fu nominata Kristalina Georgieva. Lussemburgo. Ma tornando all'oggi alla commissione Juncker, si può dire che è toccato alla danese Margrethe Vestager, commissaria designata alla concorrenza, chiudere il primo giro, la prima settimana, quella che ha coinvolto 21 commissari, mentre tra lunedì e martedì della prossima settimana toccherà ai 6 vicepresidenti, tra cui l'italiana Federica Mogherini. Il bilancio fino adesso è generalmente positivo, ma non mancano alcuni dossier ancora spinosi che riguardano quei commissari che fin dall'inizio avrebbero dovuto temere la graticola delle audizioni alle rispettive commissioni di competenza del Parlamento europeo. Stimados colegas, durante la passata campagna elettorale hice un commentario desafortunato che pudo poner en duda mi compromiso con el valor de la igualdad. Fue, en efecto, un comentario desafortunado. Pedí perdón en su momento y vuelvo a pedir perdón hoy ante ustedes. Lo siento. Quello dello spagnolo Miguel Arias Cañete, a cui Juncker ha affidato il portafoglio dell'energia al cambiamento climatico, sembra essere ancora il nome più a rischio. Nel corso della sua audizione si è difeso dall'accusa di aver posseduto azioni di due piccole imprese petrolifere, affermando di averle cedute da tempo a suo cognato. Non era esattamente la risposta più adatta per placare i sospetti degli eurodeputati di centrosinistra, che lo hanno anche pungolato per alcune sue dichiarazioni misogine, delle quali peraltro si è scusato. Il Partito Popolare Europeo ha tuttavia difeso vigorosamente durante l'audizione il suo candidato, ministro uscente all'agricoltura del governo Rajoy, e ha contrattaccato nel corso dell'incontro di giovedì mattina con il commissario designato agli affari economici e monetari, il francese Pierre Moscovici. Ma sentiamo com'è andata a proposito l'audizione dell'ex ministro dalla voce di Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Pierre Moscovici, il candidato commissario agli affari economici, ha difeso strenuamente stamani la sua credibilità dinanzi al Parlamento europeo. Ex ministro delle finanze in Francia, l'uomo politico socialista è stato attaccato più volte dai deputati popolari, convinti che Moscovici sarà comprensivo nei confronti del suo paese quando dovrà analizzarne i bilanci nazionali. L'ex ministro ha assicurato che da commissario rispetterà pienamente le regole europee di bilancio, non farà alcuna differenza tra paese grande e paese piccolo. Al tempo stesso ha sottolineato che le regole non sono stupide e tengono conto dell'evoluzione dell'economia. L'audizione di stamani è giunta dopo che questa settimana Francia e Italia hanno presentato controversi piani triennali di finanza pubblica, rinviando obiettivi di bilancio e abbandonando recenti impegni europei. La Commissione europea sarà chiamata a un nuovo difficile esercizio di acrobazia politica, applicare le regole con duttilità senza metterle a repentaglio. Well, thank you, Mr. Chairman. Members of the committee, thank you as well. I'm grateful to you for conducting. Tra chi dovrà ancora lavorare un po' sulle sue credenziali di europeismo c'è anche il britannico Jonathan Hill, l'unico appartenente al gruppo ECR, il gruppo dei conservatori e riformisti europei, di cui fanno parte gli esponenti politici di 15 paesi europei, ma nessun italiano. Hill, che ha la delega ai servizi finanziari, dovrà sottoporsi a una seconda audizione da parte della Commissione. I would like you to avoid some embarrassment by pointing out that her name is to be pronounced Mrs. Jourova. Anche per la ceca Vera Jourova, commissaria designata alla giustizia, alla tutela dei consumatori e alle pari opportunità, c'è qualche problema. La Jourova, deputata a Praga, dove si è laureata in legge all'Università Karlov, è l'attuale ministro dello sviluppo regionale. 50 anni, a suo agio anche in inglese, russo e romeno, è entrata in politica a livello regionale nel 2003 come membro del Partito Socialdemocratico. Nel 2006 ha però trascorso un mese agli arresti per un'accusa di corruzione dalla quale è stata poi assolta. To be a commissioner is to be a committed European. C'è poi il caso spinoso dell'ungherese Tibor Navracsics, commissario designato all'istruzione ed ex ministro della giustizia nel governo Orban, e per questo anche preso di mira nel corso della sua audizione, benché difeso a spada tratta dagli eurodeputati del suo partito Fidesz, che fa parte del PPE. Si è definito un convinto europeista, ha detto di essere un difensore di tutti i valori dell'Europa, compresa la tutela delle minoranze, e ha dichiarato che non sacrificherà la diversità culturale dell'Europa sull'altare del libero scambio, riferendosi in questo caso alla tutela dei diritti intellettuali all'interno dei trattati internazionali come il TTIP. Insomma, un lavoro a tutto campo per cercare di sedurre i suoi interlocutori, ma le cose non sembrano essere andate esattamente in questa direzione. L'eurodeputata olandese Sophie Van Velt, dell'ALTE, ha commentato su Twitter l'audizione del commissario designato affermando che più l'ungherese giura fedeltà agli ideali europei, più a lei appare poco sincero. Per conoscere il destino dei futuri commissari dopo gli esami parlamentari, bisognerà comunque aspettare la fine di tutte le audizioni. A quel punto, i coordinatori dei gruppi politici delle commissioni parlamentari competenti stileranno un giudizio sul candidato o, in caso di dubbi, potranno chiedere ulteriori chiarimenti. Se tra i gruppi non ci sarà unanimità sulle capacità del candidato, verrà riunita la commissione che dovrà votare il proprio appoggio o meno. Il 7 ottobre ci sarà dunque una valutazione generale. Tutti i giudizi finiranno sul tavolo della conferenza dei presidenti il 9 ottobre e, solo se non ci saranno problemi, la nuova commissione Juncker verrà votata per maggioranza semplice a partire dal 22 ottobre nella plenaria di Strasburgo. Staremo a vedere. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.